Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento con l'Adico, questa settimana l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ancora non troviamo il presidente Carlo Garofolini, che ormai siamo abituati ad avere al telefono, ma è in vacanza. Con noi c'è Gianluca Codognato, ben trovato. Ciao Francesco, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, qua l'ennesimo caso, questa volta raccontiamo una cosa che è andata a buon fine, l'ennesimo caso di quelle benedette bollette pazze che ogni tanto possono capitare a chiunque. Raccontiamo un po' questa vicenda. Sì, allora Francesco, sai, noi siamo abituati a chiamarle bollette pazze e a volte ci troviamo di fronte veramente a delle bollette pazze, nel senso che non hanno senso di essere. In questo caso invece, e purtroppo in tanti altri casi, ci troviamo di fronte ai conguagli, sì, che stanno diventando una vera tortura per tante famiglie, dato che ormai i fornitori hanno la possibilità di comunque tornare indietro di 5 anni per ricalcolare poi delle bollette che poi vengono presentate alle famiglie con delle cifre veramente spropositate. Abbiamo tanti casi di questo genere e, insomma, stiamo anche lottando come associazione perché si trovi un altro metodo, perché veramente diventa pesante. In questo caso la bolletta a un impiegato lidense della luce elettrica era di 6.600 euro, così trovarsi una bolletta sulla buca delle lettere da 6.600 euro certamente non tranquillizza. Quindi un conguaglio, quindi erano effettivamente della corrente elettrica che è stata consumata, ma evidentemente per errori del gestore non erano stati chiesti i soldi prima. Allora, i calcoli oggettivamente noi vogliamo anche un po' capire, uno dei motivi della nostra battaglia, poi come vengono rifatti dai fornitori. In questo caso però i calcoli erano assolutamente sbagliati e probabilmente tutto è derivato da un cambio di un contatore. Però quando al nostro socio è arrivato un conto di 18.000 kilowatt, un calcolo di un consumo di 18.000 kilowatt, annuale contro un consumo annuale di 3.000 kilowatt, si capisce che insomma un problema c'era, sicuramente. Ecco, quindi per fortuna ci siete riusciti, avete aperto una trattativa con il gestore, come è andata a finire? Sì, guarda Francesco, ti dico, in realtà il nostro iscritto, prima di rivolgersi a noi, ci ha provato per un anno a risolvere la situazione, ma ha telefonato ai call center, prima gli risponde una persona, poi un'altra, è sempre molto difficile. E dopo appunto ha avuto modo di rivolgersi al nostro ufficio legale, noi abbiamo scritto una diffida e spiegando un po' la situazione, e finalmente a un certo punto Eni ha riconosciuto l'errore, però attenzione, prima di riconoscerlo aveva già fatto un piano di rateizzazione al nostro socio, il quale aveva già pagato da gennaio a luglio 3.000 euro a rate. Per fortuna, ecco, questi soldi gli sono stati restituiti. E quindi insomma noi siamo felici. Il problema è che tante persone non pensano di rifarsi fare i calcoli. Chiaramente l'impiegato va a 6.600 euro ed è venuto da noi, però ci sono anche bollette magari da 400-500 euro che sono calcolate con errori da parte del fornitore, però magari la persona preferisce pagare piuttosto che iniziare ad andare in giro per uffici, eccetera, eccetera. Invece noi diciamo rivolgetevi alle associazioni dei consumatori, questo è il nostro consiglio ovviamente. Beh, quindi una bella cosa, insomma, anche forse risparmiare 400 o 500 euro altrimenti andremo tranquillamente a pagare, è bene, come dire, essere puntigliosi e cercare il giusto, quello che è d'obbligo pagare. Quindi l'Adico c'è qua anche per questo, ricordo www.associazionedifesaconsumatori.it, c'è uno sportello dedicato a queste problematiche. Allora, per quanto riguarda le bollette, diciamo che l'associazione segue un caso su tre di quelli che seguiamo noi, riguardano appunto bollette, quindi non abbiamo neanche lo sportello specifico esento, sì, essendo proprio una tematica quotidiana. Quindi insomma diciamo la bolletta chiaramente diventa il nostro pane quotidiano tra virgolette. Va bene, quindi basta chiamare il numero dell'Adico, siete sempre aperti. Sempre aperti. Grazie, sempre aperti. Grazie a Gianluca Codognato. Ciao. Ritroveremo l'Adico anche la settimana prossima.